un patto per il giorno che verrà. E al momento del duello non avrò pietà. Marco come un figlio Nita Dark. Hardcore, sì, ma da combattimento, che di fa dire quel che bene e quel che sento dentro. Hardcore, sì, ma da combattimento, che di fa dire quel che bene e quel che sento dentro. Hardcore, sì, ma da combattimento, che di fa dire quel che bene e quel che sento dentro. Hardcore, sì, ma da combattimento, che di fa dire quel che bene e quel che sento dentro. Ti assetto ad aspettare il nostro zetto. In assetto ad aspettare lo sponsetto. Ti aspetto sul palco come HPG. Oh mamma mia, guarda quanti MC che ci stanno qui adesso, sì. È scoppiata la bomba con marchio HC. Fancula chi si becca le schegge. Io sono il lupo cattivo, il fuori legge. Tu sei la pecora che segue il gregge. Scappa pure a pascolare nei tuoi verdi prati, perché i lupi hanno fame di vigliacchi. Sarete umiliati, annientati dalla faccia della terra eliminata. Vi cambi connotati, basta con i ricatti, vi avete fatti incazzare. Io la mia cultura musicale me la sono andata a cercare, non me la imposta la TV locale o radio commerciale. Siete gente che scompare col dire il fare, c'è un'enorme differenza. Che non dice sentenza, nessuna speranza per chi può vivere nell'ignoranza. Non saranno mai abbastanza i nostri insulti, provocare tumulti, forse questo sarà meglio per farvi capire che facciamo sul serio. La vostra parte oscura non ci fa paura. Poser merda. E fancula chi cazzo se l'incura. Hardcore, sì, ma da combattimento, che mi fa dire quel che bene e quel che sento dentro. Hardcore, sì, ma da combattimento, che mi fa dire quel che bene e quel che sento dentro. Hardcore, sì, ma da combattimento, che mi fa dire quel che bene e quel che sento dentro. Hardcore, sì, ma da combattimento, che mi fa dire quel che bene e quel che sento dentro. Ti assetto ad aspettare il nostro zetto. Ti assetto ad aspettare il nostro zetto. C'è chi va a caccia di un contratto, io sinceramente me ne sbatto. Non c'è da compromessi, l'alcol non si nutre di porci interessi. E lascio strada libera ai nuovi fessi. Da una parte li popolo di Nicolo, dall'altra quello serio. Io sono il mio piccolo con i valori giusti per andare a segno. Questo è il punto del mio impegno. Ho fatto la mia strada senza nessun sostegno. E sono io il mandante. Ti faccio vivere l'inferno come Dante. Fatti da parte, hai giocato male le tue carte. Mettiti lì, stai in attesa, perché farmi fuori sarà un'impresa. L'ora della resa, dei conti. Siamo sempre pronti per affronti più pesanti. Ci siamo fatti avanti, a noi non ci incanti. Dipenditi le tue palle, levati dalle palle. Come una pugnalata alle spalle sarà il nostro blitz. Feroce come il mio beat, raggiungo l'ultima meta, quella della vendetta. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Non state allerta, perché tana delle tigri uscite da van scoperta. A setacciare sacri idioti e a piccare fuochi. Scenderemo nelle strade a fare fiaccolate con le mazze da occhi. Hardcore, sì, ma da combattimento, che mi fa dire quel che bene e quel che sento dentro. Hardcore, sì, ma da combattimento, che mi fa dire quel che bene e quel che sento dentro. Hardcore, sì, ma da combattimento, che mi fa dire quel che bene e quel che sento dentro. Hardcore, sì, ma da combattimento, che mi fa dire quel che bene e quel che sento dentro.